Italia in controluce. Oggi è il 5 novembre, la prima edizione di Italia in controluce, la cronaca italiana secondo Radio 24. Buongiorno da Daniele Biacchessi. Sono i giorni in cui si ricorda la morte di Pierpaolo Pasolini, sono gli attimi in cui affiorano vecchi e nuovi ricordi, vecchi e nuovi particolari sulla sua uccisione. Teresa Trillò. Poesia in forma di rosa. Ho sbagliato tutto. Sbagliava, spaurito al microfono, con la prepotente incertezza del brutto, del soave poeta, quel mio omonimo che ancora ha il mio nome. Si chiamava egoismo. La voce di Pierpaolo Pasolini fu spenta con la violenza una notte di novembre. Era una voce scomoda, ma anche profetica. Uno dei più grandi poeti e intellettuali del nostro tempo. Una voce profetica scomoda anche per il suo partito comunista, perché omosessuale, senza falsi pudori. Quella mattina del 2 novembre 1975, Lucia Visca, giovane cronista di Paese Sera, fu la prima giornalista ad arrivare all'idroscalo di Ostia, sul luogo del delitto. Oggi i ricordi di allora affiorano nitidi. Quei primi atti io trovai un corpo massacrato, sconosciuto, probabilmente, secondo quello che raccontavano gli investigatori, vittima di un regolamento di conti fra malavitosi. La scena era tremenda, era devastante, questo corpo era a bocconi, quasi irriconoscibile, tanto è vero che la coppia di anziani signori che l'aveva trovata, i signori Lollobrigida, proprietari di una delle baracche dell'idroscalo, all'inizio l'aveva scambiato per un sacco di spazzatura. La moglie aveva consigliato al marito di andare al commissariato a denunciare il vicino che regolarmente buttava spazzatura davanti alla loro porta. Così era quel cadavere, così è apparso in tutta la sua tragicità quando lo hanno rivoltato, quando lo hanno messo invece appoggiato sulle spalle. Un massacro spaventoso, e l'identificazione è avvenuta in modo certo soltanto quando hanno ritrovato la camicia, perché nella camicia di Pasolini era rimasta la targhetta della lavanderia in cui appunto era scritto Pasolini. Giuseppe Pelosi, Pino La Rana, per i suoi amici di borgata, confessò subito il delitto, scatenato da richieste sessuali non pattuite. Pino Pelosi è un assassino reconfesso, la verità giudiziaria ci dice questo, è stato condannato, la sentenza è passata in giudicato, soltanto negli ultimi anni ha confuso le acque tentando di ritrattare, non gli ha creduto nessuno, anche perché il personaggio è assai discutibile. C'è un'altra verità giudiziaria, cioè la prima sentenza, quella di Carlo Alfredo Moro, quella storica di condanna di Pino Pelosi, parla di omicidio compiuto in concorso con ignoti. Negli anni tante sono state le ipotesi su moventi e mandanti. I magistrati hanno riaperto per ben 4 volte le indagini sulla morte di Pasolini e per 3 volte hanno chiuso tutto con un'archiviazione. A questo punto bisogna trovare questi ignoti. Il problema è dove? Anche perché sono passati troppi anni. Rispetto all'inchiesta, quella riaperta con l'incidente probatorio sui reperti che furono trovati nella macchina di Pasolini, io non mi faccio troppe illusioni. Quei reperti sono stati conservati malamente nei sotterranei della Procura di Roma, del Tribunale di Roma. Credo che la maggior quantità di DNA che troveranno sarà quello di topo. Troppi sono morti in questa vicenda, tutti quelli che avrebbero potuto raccontare delle cose, qualsiasi fosse la pista, diciamo, dalla malavita ai ragazzini malvissuti, alla pista alta politica, del delitto ordito da servizi segreti e criminalità nera, ispirato da Cefis, dalla massoneria della P2, insomma, tutte queste piste dovrebbero a questo punto, visto che sono andate disperse le prove, essere sostenute da confessioni, essere sostenute da rivelazioni. Chi può farle è morto. Ormai sono passati 35 anni, per cui credo che la verità forse potranno darcela gli storici, i cronisti credo che non faranno in tempo a scoprirla. Italia in controluce. Luigi Ciavardini, un militante di terza posizione degli anni 70, condannato per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, 85 morti, 200 feriti, ma Ciavardini per molti gruppi della destra radicale è innocente, così come Giusva Fioravanti e Francesca Mambro. Ma sarà proprio così? Daniela Binello ha intervistato Claudio Lazzaro, giornalista, autore di docufilm sulle destre extraparlamentari. Loro negano che Ciavardini, Mambro, Fioravanti, eccetera, siano responsabili della strage di Bologna. In realtà Ciavardini, che è un elemento di terza posizione, organizzazione fondata da Roberto Fiore, l'attuale leader Forza Nuova, ecco, Ciavardini è stato condannato, così come Mambro e Fioravanti, in terzo grado, cioè definitivamente, come responsabile di quella strage. Ma quando io sono andato al meeting di Forza Nuova, dove ho girato il film Nazi Rock, il documentario sull'estrema destra italiana Nazi Rock, ecco, in quella sede Ciavardini, che in quel momento era fuori dal carcere, perché come sai in Italia poi tutti riescono a star fuori dal carcere, avere permessi eccetera, arrivò a quel meeting, che era un meeting politico, il meeting politico di Forza Nuova, acclamato come una star, cioè applausi, intervento eccetera, così come in quella stessa sede acclamato come una star, intervenne sul palco in Sabato, che era quello che aveva messo la bomba davanti al manifesto. Ecco. Però per dire, Ciavardini viene ritenuto una vittima del sistema giudiziario e del sistema politico italiano, quindi una vittima dei depistaggi che i servizi segreti avrebbero fatto per attribuire la strage all'estrema destra, mentre invece poi i veri organizzatori di questa strage resterebbero nell'ombra. Questa è la loro tesi e loro la professano, ma tutti, non solo Forza Nuova, ma tanti altri gruppi, perché per esempio anche Casa Pound, no? Che fa delle battaglie apparentemente di sinistra, pur essendo un gruppo di estrema destra, cioè la battaglia per la casa e per il mutuo sociale per la casa, no? Poi quando loro distribuiscono i loro volantini per la casa ai senza tetto, eccetera, cioè questa causa anche lodevole, nello stesso tempo fanno firmare per Ciavardini libero e Ciavardini innocente, cioè è un loro cavallo di battaglia, cioè negano la responsabilità di Ciavardini. Dobbiamo ricordare comunque che Ciavardini, anche se per caso dovesse essere innocente per la strage di Bologna, che è la più grande strage che si sia verificata in Italia, no? Più sì, di 80 morti, più di 200 feriti, comunque è responsabile dell'uccisione di un magistrato che lui ha giustiziato proprio per strada, no? Quindi non è certo uno stinco di santo, non è uno da considerare un eroe, e invece viene accolto come un eroe. Italia in controluce termina qui, radio24.it, vi ricordo il nostro gruppo su Facebook, in controluce su Twitter, controluce@radio24.it, Peter Bescapè ha curato l'edit e il montaggio di questo programma, torniamo oggi per la seconda edizione alle 13.30.